Così è. Andiamo e andiamo. E allora, se lo fa te, ma è buona la sera. Ma è, ma mi pare che... è asciutta, Iccia, eh. Ci avvicina, ma no... ha detto che noi no. Per carità. Non andiamo bene, sto. Non andiamo bene. E forse è non che non se ne può dare, va. Tutto a parte... centro. Ma fare sopra e in montagna su e basta. Cazzi, no, che non li fa, signore. No, che siamo asciutta. E non che ti arricano il giorno nuvole e nuvole. Perché sta, ma qua va di tu rivi, so, cazzo, tutti secco, Bisogna andare a mare a ricannire. Già da Gesù a pregare. Il Salvatore può fare un po' leva. Ma che chi vi ha detto che ci può entrare? Non si può entrare senza la maschera, non si può entrare no. Hai teso? Ah vada, a rifei poi deve essere sempre la maschera, Io non faccio di uscire a Ruggentro. Io non faccio di uscire a Ruggentro. E c'erano niente di notturni. Ma è obbligatorio, tutti quanti, dalle 6 in poi, dove si esce a casa deve essere la mascherina. Nei villaggi, dove c'è molta frequenza dei giovani, assemblamenti. Da Torre Vendichisti che sono tutti contagiati. Di questi se negavano un poco, cosa, se la deve controllare, la manco, ma ne controlla uno ogni azzento. E non lo sai che è così. E così che fate lì, purtroppo. E allora, vedi, non abbiamo perso così, non abbiamo perso. Già se ne chiamare la raga noi da lì. Chi si deve tornare in bacca e pura. Cazzo deve andare a rimedio, no, gira le fate, fai i tini. L'unica cosa che deve ne fare che si fa, che arrivano con i barchini, chi si deve venire a durare da reddito? Ecco cosa è, se no le fate fare la quarantena e da poi che c'è visto c'è visto. Ah sì, ma se tutte le nazioni avrebbero controllato questa gente sui forti, controllate e non fa di battie, perché no, li sono fatti battie a chi, li sono secchendo i draghici. Non si comprende più nulla, ecco cos'è, non si comprende più nulla con chi. Ah, bravo, noi diventiamo zeracchi e diventiamo il padrone da voi. Ma, chissà che non faccia questa cosa. Questa è una cosa seria, non è una cosa da ridere, è una cosa seria veramente. Domani già cosa ti dico, a piano andiamo ad avanti. Piano piano, si comincia a ripire, voglio vedere, ci sto come c'è la questione. La questione seria veramente, lui non si parventi, e poi tutti in Italia per il... Purtroppo sono le gabbizzone che devono fare che cosa, sono loro che devono dire, unimmo a che cosa, unimmo chi d'altro, a monitorare, invece nulla. Entrano in aeroporto e manco controllati. E il gabbizzone si vede che mangiano, si sono appena arrivi pochissimo. E anche che se lo potevamo dire in galera a chi se lo poteva tornare in Zanetto. Ma dipende tutto dal governo, non si può fare nulla. Ah, che il governo bisogna fare il travaglio. A capaburo è fatto il travaglio. Andiamo, andiamo. Dai, si intende. Non andiamo bene, andiamo male, siamo andati male a vero. Chissà che non faccia. Per carità, ragazzi. Cosa vuoi che fermo? Nulla, hai contro nulla. Ma, aspetta, mi manda che tanto, io ti stupido che sto. Io sono qua. Capito, dove sto, la questione. Tu sei per sempre andando e peggiorendo. Non migliorendo. Capito. La voce stiamo male noi, paese. Cazzo, hai visto? No, travaglia, le sono pagate, dici, ma fini ai nomi. E cosa vuoi fare? Sono tutti i giorni, Gio Maria. Tutti loro. Cosa vuoi che facciano ormai? È così la legge. Ma che ci arrangiano i ci portiamo tutti canti a pizzi. tanto non si comprende più nulla, che aerobose, che aerobose, si prende in giro tutta la popolazione, in tutti gli stati. Dovrebbero bloccare le nazioni, i confini devono bloccare, devono controllare i confini, non farli uscire dalla loro nazione. No, vengono sempre, non sono controllati, evidentemente per un magnassume che non finisce mai in tutto il mondo. Purtroppo, ma che lo che è fuggito ce ne sono fottiti, hai da fare tutto, qui ce l'ha. Ma che ce l'abbiamo ricontrollato, ricontrollato, capito? Ha scappato, ha scappato 10 persone, fatti il torrentereggio, ferma di lì, non andare lì. Per effetto dici, vai, vai. Vai a vederti e se sei di sì, più pane, e io mangio la faccia vostra ai nomi, sì, sì, sì, sì. Allora, purtroppo, sono venuto a rifare. Ma è la cosa, Emanuele, non è inteso. Aspetta il telefono a tocca. Resta di prosciutto, che fai? Sto venendo qua, Emanuele. Sto sentito toccanti il CBR. Ma io mi sono assentato che hanno suonato alla porta e mi sembra che stavo parlando con Claudio, boh, mi sembra, però il CBR. Giammarì, hanno da festeggiare, andate. Ah, festeggiare, vediamo un po'. Manuele, attento, Gingo, alla migliore che Calmara. Qui si è andata in alfia l'antenna con Curabera. Attenzione, signor Bacchisio! Mi figuri che andrò a travagliare notte di notturno. Vuol dire che hanno detto che da Edo? Mi farei portare, aspetta, appoggio a una messa, no, non mi vengo, non si dà a te, non mi vengo, non mi vengo, non mi vengo, non mi vengo, io se no non mi vedi, io sono andato. Tanto più di che tu tanto non puoi entrarmi, Giomari. No, vega, poi basta, al funerale la mia, era piena la vita, se fai pure la vita pura. No, è un po' di strada, è un caro tipo di strada. La mascherina, non mi trago la mascherina, so. Non arrivate nessuno a fare osservazioni, era piena la vita. Cazzo, noi no, che no. Quindi, andare da via fermi. Ah, la chiesa di San Vincenzo. Non so che chiesa è. Prima la chiesa abbiamo visto le abruzzi là, a fianco, a stessa, a dritta, a stessa. All'interno, guarda, è a fianco, è ricostruito di via fermi. Via la San Paolo, quello. Ah. La San Paolo. Ah, la San Paolo, vedo un po', visto là e so. Ah, che è a cuore si fa sentire. Ciao Antone, ciao Giovanni, avanti Vittore. Ehi, ok, ciao Antone. Ciao Ribambito, sempre Ribambito, sì, rimani Ribambito. Antonello, io sono Marino, ma insomma, sono tipo una piombo. Ma Antonello, ti ha pigliato, sono Marino. Poco ora che non stai arrivando. Storici, aiuto, dai, parla bravo. Non ci ribò di nulla, no. Non fa di nulla, che subito ho fatto a pizzi. Cata, ma vai da un poco. E ora, già mai non un nome, tanto no. Sì, va bene il mio nome, anche se non mi piace, tengo il mio nome. Cosa vuol dire? Comunque, non è quello che la chiesa di... La chiesa di San Paolo, con la bella grande, c'è una bella piazza dietro. Avanti, Giovanni. Beh, è una bella chiesa, hanno fatto, è bella veramente. Mi sta dicendo, che non fanno il caso di quest'anno, no. Ecco, non è casa funerale, era piena io, piena. E ora venerà altrettanto, quello mi cade, che era un caso a morire. Una bella chiesa quella, Ma chi è morto Giovanni? Scusa, sono iscritto. Sto. Giovanni, no, ti ho chiesto chi è morto. Allora, la mamma di Januario. Ah, la messa c'era, già un mese ha fatto. La messa, stasera c'era il mese, io non avevo voglia, sono andati tutti i miei figliori. Mi volevo buttare, però il giorno non avevo bisogno, non ho bisogno di cazzare. Vai, entrato i miei figliori, che andrà a travagliare. Era di lì, non ce lo sapevo, ragazzi. Con un tragico, mamma tua, è chiaro, non lo sapevo. Vabbè, purtroppo, là. Succede, ma anche a me non mi piace molto andare nei funerali e nelle messe. Io mi miro anche ci vado, perché non ci voglio andare, avanti tu. Tore caduto, avanti Giovanni. Fare queste cose, purtroppo con la GB. No, se no mi dico, piglia, vai e andare a giura. No, non è che io, non mi piace, sinceramente, no. No, non lo va per me, non avanti Giovanni. Io quando cerco di evitare, evito e boh. Ti mando giù la mia moglie, ti mando e boh. Ma io, se che poi io già non ci vado, mi dispiace, non ci vado, non c'entro. Oh, meglio nulla. Avanti, dove vai? Ah, purtroppo così. Purtroppo siamo di passaggio, Giovanni, bisogna goderla ogni giorno la goderla. Avanti, ma Giovanni scusa, ma non posso lavare un po' la voce? Sì, leggermente un po' bassino. Non cazzo fitto niente, ma. Sì, leggermente basso nel radio. No, tu lo stai andando bene, io basso sto. Perché sono 40.000 sono. Io sono con quello per aspetto di bastone di scopa. No, come sentiamo va bene, senti che lo senti Giovanni. È la radio, capito? È la radio, ogni tanto mi tocca salvare quando sento a te, e abbassare quando sento a te, capito? Che puoi leggermente aumentare appena appena. E non me lo fatto, visto. E più di tre parti non va. Così che, e poi è carico di stazionari, allora ha messo l'accordatore e faccio il conto, va buttando giù le stazionarie e cerco, sarà un quarto, e mezzo, capito? E ok, dai. Avanti tu, Tone. E io la seguino io. A cui mi senti tu? A me stai arrivando bene. No. A me stai arrivando bene, radio perfetta, 5. Ma forse da quella parte arrivi basso, però. No, ma è solo la radio e basta, è solo la radio, il segnale va bene, il segnale non c'è nulla, già sta arrivando. E la radio leggermente basta, va bene, dai, no, non fa nulla, domani già ci sentiamo stesso, avanti. Perché? Sono con il microfono originale, perché ho visto gli amici sicuramente a questa parte, ma è importante che a me mi senti, capito? Quello poi che io arrivo. Io arrivo a Monteoro che ce la faccio. Mi serve, ne ho pazienza. Comunque c'è stato un break, Marino, fallo venire, avanti. E se vuoi fare il break, buonasera. Ciao Gio Maria, dottore, Marino. Oh Marino, domani può passare da Manuele. Oh, ciao Tony, buonasera. Posso passare da te? Ma dove? Dove lavori? Da Manuele. Da Manuele a Ferenzo? Forse sì. Ah, che ti lascio quella roba là. Benissimo, Tonino, benissimo. Dopo tutto sì. Quando recupero qualche bambola non si apre, sale sulla parte. No, quella la diamo a Falcone. Come mi ascolti a Omaris? Sì, leggermente un po' sazio, Tonino. Lo so, un po' complicato. C'ho il ventilatore acceso pure. Va bene così, dai. Sentiamo un ottimo radio, va benissimo. Ok, va bene, prenditore. Ok, ciao. fa, ma non mi mettere il nome. Dai, andate. Ma oggi la c'hai io, attore? Sonno che sonno. A giocare ai drummi. Cazzo, a me mi confonde che mi dà il nome. A Tonino non ti dico di come si chiama, ma a Giovanni Giovanni non so come hai chiamato, non lo so. Allora di Giovanni. Buonasera a te. Tore, evidentemente lo ha dormito bene oggi o ieri notte, però la chiama il recupero stanotte, però hai fatto la monella questi giorni, ti dico la verità. Oh, sono là, se ci hanno dei gocchi a gesta ora, no? Allora poi ne arrivi nei dati a ridurre di Manzano, su un monello civico, una macchina, con una ventola accesa e te ne scendano. Devi piccoli che anche a frate, ma ne devi piccoli, ecco cosa è. E dove poggiarsi un po' nervoso e capita, purtroppo, capita un po' a tutti, avanti Tore. Mi capa dai, io sono entrato più che altro. Guardate quel messaggio Marino, così domani quando esce al trambacco passi a Manuele Ginco. Ok, dai, continuate il vostro coesio, io vi ascolto un pochettino, poi mi preparo la cena. Ciao Tore, ciao Marino e ciao Giammaria, alle prossime, buon proseguo. Ehi, ciao Torino, grazie per il momento, ci vediamo, ok, avanti Giovanni. Ciao Torino. Ma c'è facile, domani mattina siamo giù, dai. Tanto Emanuele, ogni Amazzano, dammi fare la visita, ci posso dire, al di fresco. Ah, ma questo lo portare per il fresco e passiamo un'oretta e si è accampato, capito? Ciao Tony, sentiamo. Vai Marino. Ciao Tony. Vabbè, ti fai un fresco in chivi, era manco così. Due chiacchierate e andate. E prendete la Marina. E non ce l'ho detto, è tutto aperto e l'aria fatta, capito? C'è il fattore, è tutto aperto e circola l'aria, si sta bene, diciamo che si sta bene, dai, avanti Giovanni. C'è un po' di arietta, va bene. Magari quest'angolo dove sono io non si fa l'aria, sto cominciando a sudare. Magari prima, adesso qua in questa cameretta, per carità, non passa l'aria, ma ci sono brutti in giù e l'aria si passa dritta. Però, già quanto tempo non accetti piano piano, così è tutto. Infatti, io mi ho già stato appena la gerranda, fa entrare un fogaretto di più. Va bene, un attimino il telefono, riprende il marito. Prego, Giovanni, prego, sì. E così è il tuo banco, vedo. Vediamo se signor Battisio è allerta. Battisio, dentro gigante, cambio. Impegnato un attimino, sono impregnato. Benissimo, hai visto come impregnato, gigante, avanti come. Signor Bacchì, impregnato andiamo bene. Avanti, se possiamo andare, andiamo. Vero Mario? Andiamo dopo. No, io sono qua sta bene, io faccio al fresco, ieri abbiamo mangiato per giù lo stesso, la cameretta, il giorno di corso della frigere, sta bene, tutto aperto, passa l'aria, anzi, non finisco il ballo, guarda, molte volte voglio venire la sera, mi appoggio e ho bisogno anche quasi il sole, leggero sopra, c'è anche un po' di freschino, molte volte, si sta bene, diciamo, là. Bene, avanti tu. Beh, da me, ha già stato una gerranda e ci sei puttuendo da avanti nel balcone, hai visto? Ma che dite più intelligente, l'ho preso, a me non è matto, Lugani, è intelligente. Ma ci faccia un po' garetto di chi si arrieta, se ne andate in chi bisogna andare, hai compreso? E me ne si arrende un po' garetto da me, e deve darci che ha visto la iatta. A te ti intendi? Cerca la mia sfida è stata un cosa all'altro, quando gira il sole ci mette lui, capito? Non mi fanno dall'ombra, maledizione. Ma sono intelligenti, cercano, sono meglio di noi. Lo sanno loro per mettersi al fresco. E si ruzza il canive. Ma, sono Tore. E io Giammaria. Dai, sentiamo. magari domani sto bene. Ciao, sto salutando in casa, grazie a tutta la chiacchierata che sto preso a te. Ciao Maria, altrettanto, buon fine di mese. Per pace, tutti dire bene domani, ciao. Ciao Giovanni, buona cena, saluto in casa, ti aspettiamo, va. Allora, ok, ciao Gianmarì, stammi bene, a domani se tutto va bene, ok, ciao. Buonasera. Che buonasera. Buonasera solo. Ehi, buonasera, ben ritratto, ben alzato, avanti. Ehi dai, già vedo più russo, buonasera a tutti, dai, non mi avete riconosciuto, là. No, veramente, non ti ha riconosciuto, non ti ha riconosciuto, io ti ho riconosciuto. E Tore innamorato, già, Tore innamorato. Dile già che a te ti ho preso anche in braccio con il piccolino, e Tore non lo sa. Agosto, agosto, amore mio, non ti conosco, così. E allora, avanti dopo. Inutile dubbi così. Non esce tu passo, ma fa sentire in dico, che è così che non conosciamo. Magari che non lo conosce dalla voce. Certo, ciao Gianni. Scusa già cambia molte volte, io faccio molto ascolto, molte volte cambia, secondo che appare che uso già cambia leggermente, avanti già. Sì, infatti, sono quello grande, grazie. Sì, vabbè, dai, io mi stavo ascoltando, però stavo facendo altro, mi sono stato salutato. Stavo facendo altro, ma sono già un'oretta che vi ascolto, dai. Bene, Meda, noi siamo qua, per due cazzate che diciamo, andrà bene. Vediamo se il gigante ha terminato il lavoro, gigante? Gigante non ha terminato, avanti Tore. Sì, sarà per finire. Andiamo, andiamo. Vabbè, pescato hai Gianni questi giorni? Sono andato venerdì, Pusara, un'orata e Pusara che ho preso. Già mangiamo, va là, già mangiamo. Malgrado avessi un'esca semitiva, non ce l'avevo, ma l'americano ho preso, ma ce la mangiava lo stesso. Tore ha preso una balena, mi chiami? Chissà chi per la ginara. Non erano 80 gradi, sono 500 grammi, così però fermentato già va bene. E anche in mare già da 300 grammi, sono mari, è bene in buccia. Sì, hanno preso più grammi, non puoi capire tutti gli occhi. E vabbè, ma già sono buoni anche quelli, Sì, già l'ho preso. E io non l'ho buttato, perché è come ne buttare l'acqua. Sì, vabbè, portami a tomare a tuo padre, cercando di tutti. Avanti che vuole entrare, attenzione che vuole entrare, noi ci vuole, va bene. Quello che tu mangi. A me sto, se non la sbuccio non lo mangio, lo lascia. A me non deve succiare, solo niente da fare. Purtroppo, quelli sono per pochi. Infatti io mangio più molluschi e cose. E un'altra cosa, vabbè, lo lascio, se lo fai il cartuccio rosso, è buona. Bene, avanti chi vuole entrare, attenzione chi vuole entrare, nessuno, ogni tanto, tutto il mondo va a buon bene, avanti Tore. Una cosa che quando li chiami non entrano, vabbè, dai, già è così. Avanti gigante. Bacchino, se scendi. Avanti. Molto bassa, il segnale è ottimo, ma la radio è molto bassa. Solleva il volume, molto basso. Avanti tu. Signor Bacchi, si aggiusti il microfono, sennò non andiamo. Meglio adesso, si è migliorata la situazione. Adesso al 100%, Bacchi. Questa è. Anda, Luogo. No, non scendo. Va benissimo, come vai come segnale, va bene. Super neanche a Torre come segnale, guarda. Avanti già. Sì, grazie. Mi sto scrivendo un messaggio a Luca, un secondo, benissimo, avanti Torre. Giulia, che andiamo per andiamo oggi, bambù. Dai, dai, vuol dire che l'antenna è troppo potente e non impara a vedere chi sta dando. Troppo caldo, troppo caldo. Avanti gigante. Carlo, Carlo, ma io sto impasticciando. Se vi dico un segreto, poi non ci credete. Torre lo sa. Quelle carcasse di microfono mi ha dato tutto Torre. Modificata, ci ho messo i PTT di micro normali, ne ho incollato, adesso sto cercando di collegare i fili, però collegare i fili andavo così male, non ho un'idea, ne salti uno, ne salti due. Giulia, purtroppo lì devi indovinare, a indovino devi andare. Compreso. Sto per indovinando, o andare la prima, se no sarà più tutto. E ieri notte l'ho sistemato, ho messo l'interruttore. Con l'altra che l'ho attaccato, se mi ha svolto la due mezza data che mi incollo tutto. Io devo entrare a Gianni che vogliamo lasciare troppo in stand-by. Oh signor Gianni! Gianni si è lontano, va finito, arriva subito, dottore, avanti. E andiamo bene allora. Andiamo bene, andiamo. Signor Bacchi, bisogna stare attenti con la colla. Adesso è fatto, sistemato, non c'è il telefono passato, devo fare la fotografia. Ha fatto il video, il travaglio, un filo che sto facendo. Ho tagliato, ho fatto, adesso è quasi finito di salvare. Se no ti penso di finire del tutto, solo la luce di lampada, mi ha la figlia sono là, la luce di sole ci vedi più. Quello è, ma almeno l'hai finito adesso, non ti preoccupi, andiamo bene. Sì, prego, signor Marino. E io stavo a prendere qualcosa, ho messo la notizia, ho messo col battuto, sempre più sì. Avanti, va qui. E due giorni c'è un sei, siamo andati anche una foto con le tue cose dell'atto, non hai visto le foto? Non guardate ancora, ma le foto di quell'animale è vicino al fuoco. E allora, quell'animale è vicino al fuoco, come è avanti ieri c'è altri animali che c'erano vicino al fuoco. No, ma davanti l'ho vista, hai già lasciato i bugi. No, già ben legato, sì. Era ben legato, ma chi? Ben legato. Abbiamo allungato il carrete come cognato e abbiamo fatto una cosa, un ragazzeggiato, una PlayStation, cavo lontano, gli interruttori sul tavolino, e andavo da soli, andavo. Il serio è stato modulato, manco ho capito tutto. Ciao già, buona telefonata, ci sentiamo per un passo, vai tranquillo. Già ti perdono oggi, vai oggi sopra, eh. Ok, avanti Torre, guarda che Gianni è al telefono, già è già più tardi in casa. Avanti Torre. Vabbè, c'è il telefono, siamo al telefono. Signor Bacchi, va via l'animale. In coso, in fuoco. Era di impegno, era con i fucili. Non si sa mai che fucile era. Sai, gli anni a belli due, non abbia nessuno. Ma un fucile c'era il porco. Il siede è stato modulato, il tuo ettore. E ce l'abbiamo legato, perché non si andavano. Eravamo in due tentandoli. Se fuggi non sparo, andate dopo. E faccio così. Andiamo, andiamo, bobo. Sì. Ho capito che stavo dicendo poco fa, ma lì. Il tuo vicino di casa hai incontrato quando stavo scendendo tu con Franco. Se fai per salutarmi. Ma chi è Bastianino? Sì. Yeah. Ma quando? Ieri? Ieri sera. E ho raccognato, poi ero in casa da amico tuo, ero il giorno di Ferragosto, non sbaglio. Da Bastianino erano. Ma che cosa? No, ieri ho messo il cameo, le 6. E verso le 6, 6 e un quarto, stavo andando da Franco. E ci siamo incrociati, e quattro chiacchiere, ciao ciao, non sempre. Oh, Bastianino già in gamba, Franco è mezzo ribambito, Franco era un fieto, Franco non mai sia come un seguito tipo Bastiano, me. E si andiamo, uno più ricoglioso dell'altro. Esatto, ha fatto un travaglio, ma hai visto la antica zona di campagna, un pavimento con le tendenze, ovvia, è toccato a smantellare tutto. Tutto ha smantellato. Chi ha smantellato tutto? Uno è andato a smantellare tutto che ha fatto un casino niente a fare. Come si dice, stiamo lavorando, se tendiamo molto piccolo, se tendiamo a bunda, latte, crendi, quindi. O stiamo ampliando il posto per mangiare. Boh, Bastiano che sta facendo lavori, lavori a Bastiano. Lo chiama lei, lo chiama a fare questo, a fare l'altro, boh. E forse è conto a Giorgiani, quello è il sogno. Io c'ho un dubbio, in quella cosa lì. Il pagamento sia non in soldi, ma in altre cose. Da chi? Quel dubbio ce l'ho anch'io. Ma c'è Giovanetta, cosa vuol dire questo? Tanto Edo è un morto vivente. Io non da più. E se fai dormito? Non mi davamo alla sicenda a novembre di sicenda, E fa un po' quel casino quasi. Sicenda che non deve bottire. Ora i soldi che ha pagato a poco, che ha detto Mascarino, di lei ha pagato, il tutto il caso che ha fatto lui. Chi sono d'America, Ivi? Autodragazia, autotravaglio, non posso parlare, sono di questo cattivo là. E ogni pubblico discorso lo porta dentro, voglio vedere il cammino. Capito, li fa vedere il cammino, dice guarda questo qui è il cammino, lo devi pulire. No, adesso la raccolta del falsale. Da chi le fa vedere la raccolta del falsale, avanti tu. dai, catte c'è che due drome, noi qui fa Giuliano. Che due drome che ci pigliare in battiglia e dice arrivederci. Lascia perdere tu. Guarda chi si va. Ragione, fa poesia sia a lei o sia la moglie, là. Ah, beh. Lei va da chi? È così la storia, raga. Anda bene, raga. Io ci vedo un po'. Oggi è lei che ti volevo, che è Marino. Ma perché lo stavo cercando? È la moglie. Era un po' Marino, non si è visto a comprare qualcosa. Se non sei venuto, non la sai, metti la tua. I viaggiatori, oggi sono attaccati, erano le tre, figurati, è un casotto, avevo il camion in mezzo grosso e siamo usciti tardi oggi, molto tardi. Quindi domani ci esco presto, domani la sera ci sentiamo, appena esco, già ci sentiamo avanti tutto. Fate così, purtroppo, è così, mentre non volevo si ha messo domani. Acqua no. Onda era. Ah cosa? Avete vinto? Andate allora. Cosa fai? Non ho riparato me bacchi, mi ha chiamato, sono andato ordinato. Chiamato? La pompa. Capito? La pompa. La pompa, signor Bacchi. Ma non ci compreso, vabbè, me lo dici domani. T'ho chiesto la pompa, no? Ti sa tutto. E beh, che cosa è successo? Ma cambia il coso interno, come si chiama? Quello che si brucia di solito, ma non è bruciato solo quello ha bruciato, va. Sono stato fortunato, va. E di cosa sa qua me l'hai bruciato? E allora, meno male, dai. Non ci ho pagato nulla. Oh. E funziona? L'ho anche usata poc'anzi, sto partito. Anzi, appena sono arrivato l'ho attaccato io. Sono usata subito. Vabbè, l'ho provata l'altro giorno con una lastra, diciamo, dai. E appena sono arrivato l'ho utilizzata. Penso che lei l'attacca se si dà la drummi. No, già sono rimasto vicino, ma chi? Mi ha fregato, già ero stanco. Ero stanco, va, sinceramente mi sono dormito con un macro, boh. Se sei dormito non è forse il lavoretto. Esatto, sai perché mi ha fregato? Perché non avevo... Non c'è più galleggiante, l'ho capito. E mi ha fregato per quello, se c'è stato galleggiante c'era bloccata. Devi guardare che la gente sia scorregole, che scenda, salga, scenda, se c'è appoggiata alla parete, lo blocca, boh, buonanotte. Ma io la metto al centro sempre, ma sì, sempre al centro, capito? Dunque il problema non ce n'era. Solo che si è bruciato con la gente l'altra volta, no? E non vengo, e ecco, fa una cosa. Lasciamo così, aggiusta, non si fa la cosa esista, non me ne potendo realizzare, già sto attento, e invece mi ha fregato con Tommaso. Ah, ti sento io. Vabbè dai signori, io ne approfitto, ci sentiamo domani se ti spandare, ok, ciao Marino, ciao Bacchisio, ciao Andrea Gianni, salutatemi, ok, ciao a tutti. Sbagliando si impara, vero Tom? Mi siete sottomodulati, ok? Comunque ho capito, dottore. Ciao Tom, ben sentito, è stato in casa, domani si concilia, dai. Dottore sta chiudendo, avanti la chiesa. Ciao Tom, buona serata, saluto la signora, buona cena, buon zutto. Buona dormita, buona passeggiata domani. E domani fa quello che ti piace. Ciao dottore, buona serata. Ok, ciao a tutti e due. Ciao dottore, ciao domani, ciao. Insomma, ormai da qui, sto più attento, va, ero stanco, mi ha fregato, con un macchio mi ha fottito, stasera l'ho attaccata, gli ero vicino ogni tanto a controllarlo, eccetera, va, già va bene. Ehi, tanto funziona così, va benissimo, bisogna avere occhio a guardare ogni po'. D'accordo, comunque l'ho voluta togliere leggermente, dai, tolta tolta e non ci penso più almeno, dai, sono andato proprio al fondo, già va bene. Chi è questo qua? Allora. Alza il volume, ciucu ciucu. Facci tutto, ciucu ciucu, facci tutto. C'è per la crema non vado, ma c'è butto. Boia, con microfono sono girato. Cosa devo fare? Dopo che esce così, la verità. Qui non ci posso fare niente, questo è il suo microfono. Questo è... ZX40. Sì, ma il tema della moda di una radio, capito? Non sono d'accordo, fate sì, vabbè, la modulazione è limpida, però c'è quella modulazione un po' che stiamo trovando dentro una radio, un po' bassina. Bene, avanti, perché mi stavo anche chiamando in estate, ho speso anche 5 minuti per il filo, va. Sì, anch'io lo devo andare alla medicina, ciao Antonio. Ebbene, questo microfono fatto me l'hai, ci o no? Lo devo venire a farti la barba. No, te lo faccio il microfono, anzi, ho 7 fatto per la chiro che mi ha dato pezzi tu. L'ho fatto nuovo, l'ho fatto. E c'era Giuseppe Leoncino, e sta funzionando. Ma la chiro che ti ha dato a fare a pezzi l'hai fatto nuovo, hai fatto bene. Mi ha dato a lui, l'ho regalato, aspetta un attimino, 2 minuti che è stato il microfono amplificato. Va bene, bene, Antonio. Fa. Quando è pronto mi chiami già salvo. Bene, io devo approfittare il micro perché devo andare a prendere medicine, è già tardi. ciao anche lei, alla prossimina, ci sentiamo, buona serata, ciao Marino, saluti in casa, a domani, bye bye. Adesso mi ascolti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, prova. Adesso sento bello, l'ascolto benissimo, Antonello. No, poco anche sempre dentro, una radio in sull'altro, capito? Ti ascoltavo, però mi dietro una radio, avanti, da qui. Dai, adesso andiamo, devo scendere a prendere le medicine, sono le 8. Marchisio vi saluta, vi auguro ancora buona serata e passa in quello di bye bye, riprendi da lì, ciao, ciao Antonello. Ok, ciao Marchisio, domani se coincide, dai, già ti chiamo domani, sentiamo, salto in casa, avanti Antonello. Come sto uscendo con questo microfono, questa palacchina, adesso va bene, sì o no? Va benissimo Antonello, va benissimo. Ok, sono a posto, va. Questo è quello che avevo comprato io, 98 euro, almeno ho sistemato un pochettino e va bene, va bene. Lo sento, non vuole il sottofondo, ma c'è qualche vento attaccato, c'è? No, è la presentazione del microfono, non si può fare. Va, no, sono andato troppo. Poi a parte c'è uno zio di alternata che dà l'alimentatore in più, lo fa anche all'altro, l'apparecchio, quindi a un certo punto si eliminerà subito, non ti preoccupare. Ok, stamattina ho trovato la micronina a Pino, mi ha detto che forse non c'è bene nel suo pareggio, ma che cazzo è, no? Aspetta un secondo, ok, adesso va bene, vedi che la fischia. Ora. Aspetta un secondo. Ecco qua. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Si può già presto, c'è per un rumore, comunque non ho nulla di cose, va, già va bene. Stamattina ho trovato con l'amico, ma con la parecchia sua l'hai già venduto, da Pino? Sì, hai già venduto, 70 euro. Già va bene, dai, tanto non è la già venuta dentro, ma è stato pure andato così. Oh no, lo vuole così adesso. Già andava bene, va benissimo, dai. Sì, non c'è problema, dai. Se questo non dio la tardata con questo alimentatore che non vuoi capire cosa cavolo sia. Lo faccio all'altro addirittura. Da quando l'ho staccato dal salone non c'è verso e questo non dio la tardata è una cosa allucinante, non ho capito cosa gli abbia preso. Sì, però come si riesce arrivando 8 e ho rotto qualcosa, non sei normale, capito? Sei trovato e mezzo questa baracchina qua, l'ho messo normale, l'ho rimesso, hai capito? Originale normale, trovato e mezzo, non ho toccato niente, né M né F, non ho toccato proprio niente, l'ho lasciato così normale, me lo tengo così. Quando vengono a casa, se lo tengono, se lo misurano vaffanculo, a un certo punto. Santiago 8 per mezzo. Bene, Antonio, ti ringrazio, mi sta chiamando mio nipote, stavo tornando a casa, dai. Ci sentiamo al prossimo. Ciao Antonio. Yeah, ciao, ci sentiamo domani, là. Buonasera, buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani, ciao. Ok, ciao. Attention, ragazzuolo. Attento Luca!